sta ammazzando in Italia, ma c'è il stazionario puro. Ola, ola. Attenzione, gappa. Sei avanti? Una serie di cuffi. Sei avanti? Gappa, Giovanni da questa parte. Come stai? Sto bene? Va bene. Ti diciamo un bello forte. Dai, meglio di prima. Dai. Cosa stai facendo di quello? Ricato sono. Te l'ho detto, dobbiamo vedere quella roba. Andiamo a vedere quella roba là. Già, guarda che migliora. Ne ho uno, bisogna provarlo, se funziona. Mi l'abbiamo dato, però bisogna fare le salvature. La prova la portante bisogna trovare. È un casino. E dai, se no piano piano cerchiamo di pulire le lamelle anche di questo e lo recuperiamo, non è da buttare, dai. Molto grazie, ecco, però con la tavola questa cosa migliora, cambia la giornata alla notte, capito? Aspetta che devo, mi sono lasciato la porta stanca. Quanto sta arrivando un'altra perturbazione, oioia. Lo vedo qua dall'orizzonte, minca. Giulia, una scocciolata d'acqua. Lo so. Guarda, già per il momento adesso devo organizzarci. Già funzionavo, ma a te si è visto. Lo so. Che acqua sta arrivando, una perturbazione. Comunque quello è, io ho un MBQ4, bisogna provare, perché cavolo, se funziona bisogna provare, mettere la batteria. Secondo me con quell'apparecchio migliora tantissimo la radio, capito? Però bisogna provare se funziona il gozzo. Vediamo e lo controlliamo. Ma stamattina è impantanato, sì, sì. Ma io esco piano. Esco perché è maledetta quella. Ando piano. Diciamo a fare così, appuntarci alla notte, accendere il verso. E se ti pesci la notte, ti acciappi la... Cioè, grazie, decimare dopo, invece ti accendere. Beh, Andu, dai, hai fatto un bel motore, riesce bene, capito? Perché quella come tutti l'acceleratore, lo sai, te ne ce la chiudo. Quindi ritorno un frattempo, soprattutto in queste strade ferrate, non le vedi. Come tocchi l'acceleratore ti va via, capito? Quindi devi andare a puntino leggero, tutto troppo a noi. A me già mi ha fregato un paio di volte che sono uscito a fare limoni, da vicino, tipo bagnato e una volta mi è capitato, anche l'anno scorso che stavo tornando, ovvero, e che aveva fatto acqua. Dai, abituato sempre a fare quel tragitto, a un certo punto mi si è girata il culo, ci sono certo dentro, sono entrato a fare limoni. Oh, è un gioco, ma un passo per amore, piano. No, non me ne bongo in brezza, non mi aiuta ammazzando. Piano, appuntaccio da loro. Perché io piano atto. Qualche domanda che riesce a bidare con la moto. Mi ha già subito abbastanza. Ne ho preso 2 o 3 di cadute di un moto. Ma forse anche 4. Prendi l'umacqua, mi è andato il tuo motore. Non vuol dire che non è un paio di settimane fa già l'hai vista, stavo dentro, da me è capitato, eppure non stavo andando, però hai visto, ho detto che un pezzo di asfalto come quello che ho trovato io, e non avrebbe fregato solo a me, ma anche se non sono il primo, in quel pezzo di strada lì è un attimo, a parte che si fa fattoria, cammina di piano, non è che ti permette di dire, però hai visto, anche andando piano, la moto, capisci? No? Appuntaccio da lavoro, piano piano, e via, un po' più di la buccia a volte. Perché questa moto non perdona, se la sbagli ti la paghi cara, la paghi, ti scendi di droghe, amo la mano di rugoto di droghe, bisogna andare piano e camminare quando è giusto, perché è troppo pericoloso. E ieri cazzo c'avevo la precedenza, cazzo, abbiamo avuto una frenata, chi ci usciamo, cazzo, no, e mangia si è accorto che ha sbagliato. Io stavo venendo dalla Budimudi, stavo venendo, né? E dove entrare i votatori è via Pascoli, cioè, cazzo dice, cazzo, lui stava salendo dalla dove c'è la Madonna, dopo il treno, va, dopo il coso, da lì, e mi devo dare la precedenza a me perché vengo dalla destra, cazzo, oggi ho fatto il tempo a frenare, mai, cazzo, ti fai un raglio. Perché oggi anche se ci metti tutta la potenza che vuoi con la moto, ma tu, io vabbè sono anni con la moto in mano, perché ho una grande esperienza, però oggi non temo per me, non a temere per gli altri, perché c'è tanta gente molto di tratta, capito? Anche me ne seguita. In moto oggi diventare più attento per gli altri che per te stesso, capito? Ma basta un attimo, magari non lo vedi e te ne spuntano da ogni forma, di come è capitato a te, un attimo, la moto devi andare con i piedi di piombo, anzi con le gomme di piombo. Mi è successo con una macchina rimane a sera, ma c'è troppa gente che è distratta, ha fatto i danni, mamma mia, troppa gente di fare un cambarumento, secondo me ancora c'è gente che beve, usa menta e luce, ti taglia nella strada, che ti brucia lo stop. E che quella volta mi hanno bruciato lo stop, cazzo, in quel cazzo di via Bellini, cioè centinaia di volte ci sono due stop, ci sono uno per girare e uno per andare dritto, puntualmente ci mettono per quello per andare dritto e ti tagliano la strada, il giorno che mi tocca lo voglio la macchina pagata, non me ne fotte niente, perché io sono giusto. Ah, soprattutto dove ho avuto un incidente io, tu, quella strada lì è usata da gente che beve, perché diciamo che è una strada interna e poi è metà comunale e metà forza sociale, giustamente lì assicurazione è un casino perché è 50%, quindi poi va a succedere casino, già se ne levi la pelle da lì, un casino, devo andare, te l'ho detto, con le ruote di piombo, soprattutto quella strada, già vedi pure com'è, figurati, gloria. Ma lì in Trentino, cazzo, chi c'è con una strada bianco, cioè, ha avuto una frenata, perché non è possibile, si è comportato in un modo strano, ha tirato questa frenata, cioè, e io ero giusto, cioè, se è sul capo, immaginate che manusello, mamma mia. Anche l'altro giorno una ragazza con un fuoristrada lì all'altezza della fattoria è uscita fuori nella rotatoria e ha dovuto attrezzare, per poco non va a finire nella finestra, ed era telefonino, una ragazza, capito? Era telefonino, dai, questo telefonino è pericoloso anche lui. Guidami, ma come tu mi puoi guidare, fa carizzare, cazzo. Guarda quanto un aggio fissato, la busta la vera, ma questo signore mi ha toccato da dentro, ma... Che fa rompere la buttata di sicurezza. Vabbè, sono trovato anche anziani che veramente traduci. Vabbè, mio, oggi io è per la bevanda, o è per il telefonino, o il telefonino, Dio buono. Con tutta la tecnologia che c'è in giro, che non è che costa neanche tanto, un Bluetooth, una cosetta, perché non usarlo? Perché devi tenere il telefono in mano? È incomprensibile vederti col telefono in mano in macchina adesso con tutta la tecnologia che c'è. Dai, sono gente pericolosa, gente pericolosa. Guidano alla cazzo, cioè non pongono i freni, non pongono i nulla, no. Sono gente che non ha la testa, no. Le guidate a casa, vale. Ma se forse siamo gli unici che non tocchiamo il telefono in macchina, non lo so. Vabbè, che non è tanta di cosa, e fa le mani rimangono sul volante. Perché se ricevi una chiamata rispondi uguale in automatico. Perché non usare tutti i soldi? Avrei capito un po' di anni fa, non c'era, c'erano i vecchi tartacchi, quelli che senza Bluetooth, senza niente, allora dai. Ma oggi, dai, 2026, dove esistono le famiglie allargate, tante cose, e ancora usi il telefono a mano, dai. No, è tutto quanto un casino, no, lui, per carità, guarda, per carità. Ah, tu, ma non ti sei riposato? Beh, tanto qua c'erano le tradizioni che ti rifugi. Se vuoi, mi fai, facciamo bianco e un'oretta qua, te la presa, la ripetiamo, te lo spegliamo. Un'oretta di sonno qua. Sì, adesso la faccio da... Ok, allora ci sentiamo dopo, va, mi dormetto un po'. Ciao Anto, ciao l'amico. Buonasera l'amico, Giovanni da questa parte, in San Michele. Eia, Marco, centro Sassari. Abbiamo tutti, volevo chiedere, l'antenna l'avevi poi raddrizzata o il palo? Va bene, che segnale ho? Sì, già va bene, a voglia, quasi sempre prossimo al fondo scala. Io poco fa a me ho buttato la spazzatura e da lì si vede tutta l'antenna e miracolosamente ci sono tutti i radiali, quindi tutti i radiali sono presenti, l'antenna è bella dritta, è andata bene questa volta, dai, questa volta ci siamo andati vicini. L'antenna in per sé non fa nulla, non ha niente, l'antenna è una struttura che è buonissima, non buona, non buonissima, perché ho visto anche quella di Antonello Pomponio stamattina, che è uguale alla mia, tanto di cappello, l'antenna è buona, è forte, l'unica cosa che è acceduto può essere qualche staffa, qualche palo, cioè sicuramente più la staffa che il palo neanche. Non è nemmeno un male, è una staffa, perché magari è tutta ad un gruppo, mi ci sono rotti i tiranti, ed è successo solo quello, capito? Non è l'antenna per sé, è a posto, non ha niente, i radiali non hanno niente, poi con quei radiali, cazzo, che tre radiali abbiamo noi, cioè sono robusti anche, no? Sono rubate le cornacchie, quante volte ci hanno fatto le paloma sopra, non si sono mai rotti perché sono radiali robusti ed è un'antenna buona e robusta, non mi hanno mai dato problemi di quello. Guarda, se fosse stato che non avrebbe ceduto i tiranti, nel tirante hanno ceduto da già un bel po', e poi io scemo di non risalire e rimettere il tirante in alto da poco, ma adesso si addrizza e cosa va tutto a posto, capito? Eia, ma infatti un po' sono rimasto, come dire, stupito che a Coso, a Lucca di via Budapest gliela abbia distrutta. Non so esattamente come, però ho capito che si è passato lo stilo, però la sua rispetto alla nostra sa cosa è differente? che lì praticamente c'hai gli elementi in alluminio dello stilo, e credo che di aver capito che c'è una boccoletta, presumo infilata a pressione, con la filettatura, e tu praticamente avviti gli elementi uno sopra l'altro. È diverso dal nostro che c'hai le viti laterali, no? E probabilmente ha ceduto lì perché li era disastrata, capito? Peccato, perché vabbè, già cambia l'antenna, ne metterà una seria come quella che ha doppio room, va bene, la super LEM, è quasi come una Mantova. Va bene, Anto, ero entrato a salutare anch'io, ho finito adesso tra cosa, mangiare, lavare i piatti, il caffè, buttare la spazzatura, adesso anch'io vado a riposarmi. E quindi vi saluto a tutti, l'amico da San Michele arriva a 7:30, Santiago 7:30, una modulazione normale, e quindi magari sente un po' di QRM sotto, però dipende da me e dalla ricezione mia. Va bene, vai Anto, QRT, buon riposo. Scappala. Ciao, ce la risentiamo. Ok, Marco, vai, mi riposo un pochino. Ciao, avanti giù. Anche io adesso faccio un riposino, casomai, cioè, ci aggiorniamo più tardi, Anto. Saluta. Dai, a dopo, anche io mi riposo un po' più. Stamattina ho un po' faticato. Ok, dai, ce la risentiamo, va. Adesso mi riposo un po'. Ciao. Ok, ciao Marco, ciao. Marco, buon riposo anche a te. Qui la yesterday, non ci sta nessuno? Così, tanto per dire. Troppo forte, capito? Cioè, no, capito, troppo forte. Se mi bruci la braccia. Che è? Buonasera. Cari, chi devi bruciare? Se qualcuno sta chiamando, avanti. Ciao Artù, buongiorno. Ciao. Bene, sto riposando adesso. Ti ho sentito te le foto. C'è qualcuno che ha detto, amico, mi senti, gare? Antonio, popolo, attento. E già sono attento, via, avanti. Sono curati, sono bugiamenti. Scappa. Bene, ti arriva per dottore. Fa vedere. Schiaccia un attimo. Una volta, una volta, tre. E prova. Ma tu? Ah, mi intendi che? Ehi, a 8. E già va bene, dai. E c'è l'antenna appena. Dalla San Massimo esce un mattese. E lì? Ma come sta arrivando? Io ho piazzato tutto qua. Ho finito tutto, dai. Ci arrivo meglio di ieri. Ma qua c'è la casa tua, non si associa. Sono a casa mia, bene, 8 lo stesso, va bene. Andrò, va benissimo. Non c'è nessun altro? Non già menti, mi senti, ma non intendi. Anche giù da questa parte ascoltone. Sì, è capace, anche giù c'è. Ok, dai, io riposo un pochino, magari sentite un bettaggio. Ok, ciao. Ciao Anto, invece c'era quello lì che stava chiamando, l'ho sentito basso. E giù non sta ascoltando, sta chiamando, va. E l'ascolto, ok? Ciao. E io vado a dormire, vai, si intende che sei dormito. Ciao. Avanti, chi voleva entrare, cambio. Non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare, non è una cosa che si può fare

solo la fa sorda. Ma io che venire al gruppo, però. Qua si sta, cioè senza correre mi sta meglio. Adesso funziona. Cioè se funziona, come hanno finito i disturbi, l'ho subito mollato, così. È forte, è perfetto. E avanti, so come. Silenzio. Ma l'importante è che lo apra lo squelcio, sì. L'importante è? Ho detto se lo apra lo squelcio, perché se ricevi segnali bassi non aprono lo squelcio, capito? Già lo so, ma segnali bassi qua il più basso mi arriva 4-5, quindi magari riesce a entrare. Va bene, quanto ti sto arrivando in quella radio io lì adesso? Senza preamplificatore normale. Allora, aspetta, che metto. Ce l'ho al buio, non si vede nulla. Ok, adesso sì. Dai, fa un passaggio. Se ho di attesa vi sarà per appena appena. Se non si è buio anche lì dentro. Guarda a vedere quanto è il mio segnale, se è uguale tipo il tuo. Sei a 8. 8 come muto mi sei a 9. E allora sono uguali i segnali, più o meno sono uguali, vuol dire che corrisponde tutto, è tutto di lusso, va bene. E allora sto arrivando bene, dai, a te. Poi la modulazione, vabbè, non c'è bisogno che te lo dica, perché la modulazione fai il zia cavernicolo, quindi già la radio è super 5. La tua è bellissima, molto bella, chiara, pulita, amplificata, senza rumori, senza niente, bella, bella, bella. Non pensavo quel microfono andasse bene per la tua voce. Andava bene, perfetto. Sente la musica, muro sotto, in sottofondo. Ha detto anche la musica riesce a ridere, pure ce l'ho bassissima, riesce a recuperare anche la musica. Alla grande si sente la musica sotto. Perfetto, perfetto, va bene, va bene. Oh mamma, quanto esco bene, quanto sono forte. Non vi affogano, va bene, aspetta un segnalone, c'è qua. Lo faceva Marco, ma non so dove cavolo è andato, ma penso che arrivi molto bene sia lui che gli altri di Sassari. Io perché sono nella collinetta, poi non vedo, non ci ho vista, capito, però arrivare qua col segnale stai andando benissimo, alla grande. L'unico che ho parlato, vabbè, sei tu e cosa, Antonio Bombolo, come si chiama, che non riuscivo a capire, sinceramente, era tutto impacciato, però era a casa sua. E adesso ci ha messo a posto l'antenna, perché c'aveva l'antenna capottata, capito, quindi non lo sentivi per quello bene. Adesso mi tocca sentire Roberto, che magari a Roberto le arrivo un po' più forte, e Marco, capito? No, io a Roberto le arrivo più forte, se il telecarbonati mi vogliono vedersi. Qua non ti vedo, cioè, non ti vedo, e quindi ho difficoltà, però i segnali mi arrivano benissimo, non c'è problema. Qualche giorno che passo col camper, ti chiamo, dico, sto passando col camper, vediamo un po' se va bene, quell'apparatino lì. Sì, quell'apparatino lì fa il suo lavoro, io ti ho sentito quando l'hai attaccato e ti dico lì, c'è una bella modulazione, funziona molto bene. Sì, avevo cambiato l'antenna, non avevo controllato neanche le stazionarie. Devo controllare anche le stazionarie. Vabbè, che antenna hai messo? Un'antenna lunga? No, quella antenna, come si chiama? No, una Midland con la carica al centro dello stilo, c'ha la molla, diciamo. Per non metterla lunga, capito? Fare di luci non mi piacciono, ma anch'io, no. Io ci ho visto quella che c'è al centro capotta la mia macchina, quella con la corte, funziona benissimo. Però c'ho anche quella un po' più lunga, ma è troppo fea, non va bene. Va per il campo, sai, la. Va bene, dai, dovrebbe andare bene. Adesso come passo quando sono nelle vicinanze di Sassari, ti chiamo e facciamo la prova col camper. Gappa, gappa, ui. Vabbè, che così è, quando sono mattina a fare la lettera con la roba, dovevo andare stasera, ma esci, no. Non ce n'è fretta, non c'è problema, non c'è fretta. Domani mattina vado, mi ritiro con la roba e poi la provo, faccio, testo e vediamo un po' la situazione. E io, tu prova, testa, tira in terra, non ti preoccupare, tanto già ho questo io. Ma vedi, si è abituato a chissà, come sarebbe, va bene. Poi ho pochissimo perché la usavo solo in 10, in 6, quindi poco, però sempre accesa, sempre perfettamente, e alla fine è stata una soluzione, perché ho tutti i giocattoli a tira e molla, uno deve uscire bene, se no non mi piace a mettere le radio. Vabbè, ma questa, stiamo già parlando di roba professionale, cioè voglio dire, ti ripeto, io radio Gucci non l'ho mai avuto, sempre avuto il baracchino normale, oppure il massimo che ho avuto è il Kenwood, basta, perché il tuo è già più su, oltre, capito? Sì, bello, quello è un pelino più in alto, più professionale, più tutto, anche perché quel TP, quella marca lì, sono il top del top, capito? Oramai la K è morta, non vuoi più nulla della K, cos'è? Radio di vecchia generazione, se vai giù, se vai giù, ma quella marca lì, quella viaggia alla grande, ci sono radio di ultima, che sono uscite da poco di quella marca lì, non ti bastano di 5-6 mila euro a comprarle. Addirittura, io ti stavo già chiedendo quanto potevo spendere per comprarlo. Quella è la fesseria. Quella è una fesseria, non ci sono problemi, ma dico di quella marca lì, quella sta ancora lavorando, la Kenwood è fallita già da tanti anni, non ne fanno più di radio Kenwood, però quella lì e la Yaesu sono il top dei top, sono marche che viaggiano alla grande, capito? Ma un bel parò, e accortano i bogusi, ui. È bello, bello, mi sono qui innamorato. Sono sempre a Baidendi, senza Duca Nuda, naturalmente. Bello. No, ma quello una volta ti abiti non hai niente da toccare. Te l'ho detto anche Galvino, quello regolato della 3x9. Va benissimo così, alla grande, pulito, tranquillo, non hai problemi, la senti, tu viaggi, lo metti in burro, una dieta asciugata, no? 140, devi accedere un'ora prima, io lo stesso ce l'ho, ma devo accedere, la vai a te, su Mattesci, però non lo sto usando, capito, sto usando l'altro, il fratello gemello più grande, un pochino più grande, va? Cosa? In FM ci sono pochi americani. Ah, lo senti anche tu? Io che volevo che avessi schiacciato io, invece no, sto parlando. No, gli americani sono gli americani sul canale 11. Roba di goi, bibigli, mamma mia, anche io qua, un bel ricordo perché usano un sacco di potenza. Mi sale l'ansia da fino alla scritta rossa, a 9:30. Seria, allora, con tutti i canali che viene ai supporti, nel canale 10 in FM, fate il conto. Ma sono su canale 10 in FM, la mazza mi scende. Vai al 9, oggi, gira il bomello, vai al 9. Dov'è? Dov'è? Io? sembra che non ci siano più, che ce ne sono andati. No, non ci sono più, no. C'è lo smetto al basso, finalmente. No, non ci sono più, no. Vedi, Togu, sono bussato, anzi, quasi con il cazzo, e tutto illuminato qua. Si vede lo smetto alla grande. E andava bene, e andava bene. Andava sì. Possiamo per toccare il microfono, usi lock, come faccio io, non ho detto mai più ti tratto sempre un lock. Ah, vabbè, non mi costa niente schiacciare il microfono, va. Oh, già va bene. Cianci o cercare 10, Marco Condo. Cosci che ho la sedia. Anzi, ti dirò che mi sa che è più comodo il microfono palmare, lo sai, in queste situazioni. Eh sì. Quando ci bucate il microfono palmare è meglio sì, però vabbè, già esce bene lo stesso, ma no, non così. Attenzione, Marco Condor, attenzione, doppio room, attenzione tutti gli altri che sono in ascolto e non stanno entrando. Richiedimi le luci, cambio! Gianni è tra i setti, esce con il gatto, usci con il capo prato, arriva e c'è bisogno dei setti, buonanotte non trommi. Ok, ti devo salutare, dai che devo uscire, ci sentiamo più tardi. Vai tranquillo Jay, vai tranquillissimo, ci sentiamo dopo, cambio. E ya, ci sentiamo più tardi, ya. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sezione 10, hola. Aia. E allora il carnevale, andate chi siete il carnevale o la Sartiglia. Su che arriviamo, su. Ciccio!